episodio 34. Bentrovati a tutti all'episodio 34 del Rock House Podcast. 34 come negli anni, e insomma gli anni si fanno sentire, perché questa è la seconda prova, seconda registrazione del Rock House Podcast. Quindi, come sentite, rispetto al solito sono molto più lanciato all'inizio, ma visto che avevo già fatto tipo 15 minuti di registrazione che ho deciso di cestinare selvaggiamente, sono già più rilassato, e forse tutto sommato è un bene. Dunque, gli argomenti per questo episodio saranno numerosi, ma non numerosissimi. Il problema è che, non avendoli accuratamente preparati, alla fine l'episodio potrebbe risultare un po' lunghino, come tutte le volte quando vado molto a braccia. Si vede che insomma ho le braccia molto lunghe, divento logorroico, mi viene la logorrea, e quindi insomma vi dovete mettere comodi e sperare che non duri troppo, oppure semplicemente fermare il vostro lettore MP3 o stoppare lo streaming sul vostro computer, perché non ne potete più del sottoscritto. Benissimo, direi di iniziare subito col primo pezzo, che già io mi sono sentito 4-5 volte. Sono gli Automagma, da giamendo.it.com o.fr, e il pezzo ha con questo titolo un po' maliziosetto, è molto carino e si torna ad essere un po' più rock, che ultimamente il Rock House Podcast, diremmo a Genova, si era un po' abuliciato, cioè era un po' meno duro. Invece in questo episodio torniamo piano piano a indurirci un pochino con sonorità rock, ma non troppo, non vi preoccupate, non troppo cattive. Ci allontaniamo un po' dagli ultimi episodi un po' più blues, e quindi andiamo col primo pezzo, gli Audio Magma con Sexy Toys. Oh, Sexy Toys degli Audio Magma da giamendo.it.com appunto. Frrr, come al solito, era un po' che non dicevo questa cosa qui e quindi ve la ribeccate, perché le buone abitudini non si devono perdere, così come le buone abitudini delle rubriche del Rockhouse Podcast. Infatti questo episodio torna alla rubrica Natura, con non un argomento di attualità ispirato al mondo, insomma, la natura, il rapporto fra l'uomo e la natura, ma con una storia di vita vissuta che racchiude tutte queste cose, l'uomo, la natura e tutto ciò che lo circonda. Bah, chissà cosa vorrà dire. Sigla. Eccoci tornati dopo la bellissima sigla, che ricordo, insomma, la vocina chiaramente non è la mia, come si sente, ma è quella di Agata di ormai un paio d'anni fa, quindi adesso un pochino più da grande, però è sempre così la sua vocina, e mentre le urla sono urla di persone che imitano i versi degli animali, e quindi mi piaceva che fa questo rapporto uomo-natura. E a proposito di questo, parliamo di una recente visita che ho fatto, quella allo zoo di Zurigo. Premetto, non sono un amante degli zoo, quindi non ero particolarmente entusiasta all'idea di visitare uno zoo, però essendo con mia figlia di 5 anni ho pensato che fosse una cosa carina darle l'opportunità di vedere tanti animali che solo ha visto in televisione o, insomma, nei film, insomma, o ne ha sentito parlare o l'ha letti sui libri e non l'ha mai visti dal vivo, quindi pensavo potesse essere una cosa molto carina per lei, e effettivamente lo è stato. Allora, innanzitutto Zurigo è una bella città, è proprio carina. Zurigo è tranquilla, rilassata, tutti molto sommessi, di tutti i toni, tutta molto silenziosa a confronto a una città italiana, incredibile. Una cosa, noi siamo andati a Zurigo a trovare un mio caro amico con famiglia che vivono a Zurigo, sono Alexis ed Evelina, che saluto se mi ascoltano, e i due figli, Chloé di 3 anni e mezzo e Arsène di 3 mesi. Chiaramente il bambino di 3 mesi non credo abbia apprezzato molto lo zoo, però le due fanciulle di 3 anni e mezzo e 5 sono particolarmente divertite, quindi siamo andati in spedizione tutti insieme e diretti allo zoo. Ma appunto, in realtà volevo dire un'altra cosa, mi sono perso, ho aperto una parentesi, che proprio il mio amico Alexis, che vive ormai da diversi anni a Zurigo, mi ha detto una frase molto carina che fa capire bene un po' come sono gli svizzeri lì a Zurigo. Lui mi ha detto: se tu prendi 100 svizzeri e li metti in una stanza, quello che senti è solamente un piccolo brusio di fondo, mentre se tu prendi 100 italiani e li metti in una stanza senti un gran casino. E quindi questo penso che sia abbastanza riconosciuto da tutti noi che siamo più casinisti, e loro invece sono fin troppo tranquilli e quieti. Comunque tutto questo si riflette anche un po' nell'atmosfera della città, comunque una città molto internazionale, con gente veramente che viene da tutto il mondo, si sentono un sacco di lingue intorno quando si passeggia, e è tutto chiaramente molto pulito, molto ordinato, tutti molto puntuali, e le strutture per i bambini sono veramente fantastiche, tenute benissimo, tantissime, ed è molto una città molto orientata ai bambini e alle famiglie, e questa è una cosa molto carina. Comunque, infatti gli svizzeri, anche grazie ai loro stipendi, sfornano una quantità di bimbi allucinante. Comunque torniamo allo zoo. Lo zoo si presenta come un qualsiasi zoo, comunque cittadino, perché praticamente a 2 passi dalla città, ma nasconde veramente dei grandissimi spazi verdi. Infatti Zurigo è tra il lago e una foresta, in pratica, quindi è proprio la foresta, è proprio vicino alla città. Quindi lo zoo sfrutta tutta la zona insomma boscosa, frestosa, e prende ampi spazi, ampissimi spazi. Addirittura a volte i recinti di animali come ad esempio l'orso sono quasi impossibili da vedere, cioè non si vede dove finisce la zona, il dominio dell'orso, e quindi queste sono delle cose belle, insomma hanno molto spazio a loro disposizione. Diciamo che il concetto di zoo stesso, parlandone proprio dal punto di vista strettamente, diciamo, biologico, ecologico, è chiaramente sono animali in cattività, quindi uno pensa che sia una crudeltà a priori. E a me non piace tantissimo l'idea di zoo, proprio perché comunque un minimo di sofferenza degli animali, o anche un massimo, dipende dagli animali, c'è, nel senso che comunque l'animale non ci sballa così tanto a stare rinchiuso. Però anche se lo spazio comunque è buono, è quasi sufficiente, o comunque cerca di approssimare qualcosa di simile a quello che l'animale troverebbe a casa sua in natura. Però comunque lo scopo di strutture come gli zoo, ma anche gli acquari, poi è lo stesso principio, è praticamente quello di sensibilizzare la popolazione verso certi tipi di animali, quindi conoscere degli animali per poter poi rispettarli. Questo sarebbe l'intento primario, dovrebbe essere l'intento primario degli zoo e degli acquari, non quello di far soldi, ma quello di sensibilizzare le persone per il rispetto della natura, e questo dovrebbe essere. Poi in realtà sono strutture commerciali, quindi alla fine sono diciamo gestiti come aziende, quindi tutto è improntato poi anche sul lato commerciale. Però questo non appare così lampante a Zurigo, appare invece lampante che loro hanno voluto costruire una struttura molto carina, fatta bene sia per il pubblico che per gli animali, che comunque sembrano godere di ottima salute. E parliamo un po' di bestie che abbiamo visto. Allora, una su tutte, che è veramente stata la bestia più emozionante, non so neanche se, cioè non lo so, non so, è una cosa strana, un'emozione veramente forte che non mi sarei aspettato, il gorilla. Ragazzi, il gorilla, non so se avete mai visto dei gorilla da vicino, ma è una cosa impressionante. Io l'ho visto un gorilla anni fa, ero uno zoo, ero ancora bambino, però comunque a distanza, avrò avuto non so 15 metri davanti a me, e vedevo questi gorilla che interagivano fra loro. Ma nello zoo di Zurigo c'è la possibilità di vederli veramente da vicino. I gorilla infatti hanno una zona al coperto, semi coperto, interna, tutta comunque recintata da vetri insonorizzati, in modo che loro non possano sentire gli schiamazzi della gente fuori, ma ti possono vedere. E in questa zona vengono nutriti, quindi è una zona che frequentano abbastanza spesso e sono abituati a vedere i turisti intorno a loro, e fanno le loro cose, la loro vita, come se nulla fosse o quasi. E si ha l'opportunità di vedere un gorilla a 5-10 cm di distanza, starci praticamente vicino quando loro sono vicini al vetro, e tranquillamente guardarli e osservarli nei loro comportamenti abbastanza naturali, devo dire. Ed è sconvolgente lo sguardo dei gorilla, cioè guardate un gorilla negli occhi, non vi dico che vi innamorerete, però penserete che cioè, comunque sia una persona, non un animale come intendiamo noi. Poi anche noi siamo animali, come sappiamo, però sono veramente persone, sono talmente simili a noi che fa spavento. Tra l'altro c'erano due femmine di gorilla con il piccolo, che ha assolutamente lo sguardo del neonato, è incredibile, e che stava attaccato alla mamma. Anatomicamente sono veramente simili a noi, e io sono rimasto veramente sconvolto. Poi anche nelle movenze, ad esempio mi è rimasto molto impresso la movenza del gorilla maschio, che è uscito, anzi è entrato in questa zona dall'esterno, dalla zona esterna che hanno, è entrato in questa zona perché sentiva probabilmente anche, cioè sentiva, vedeva probabilmente da dentro, dall'altra stanza, che c'era molta gente intorno, è venuto a controllare la situazione, e ha fatto veramente una ronda del perimetro, assicurandosi che tutto fosse a posto, ed era impressionante il modo in cui si muoveva, il modo in cui si guardava intorno, il modo in cui poi si è appoggiato per farsi una pennica, era veramente umano, una cosa stupefacente. Chiaramente io ero assolutamente rapito da questi gorilla, e Agatha pure, perché lei era completamente in palla, non ci capiva più niente, e la capisco perfettamente, è stata veramente una cosa emozionante. Poi tra l'altro capita che il gorilla maschio e la gorilla femmina abbiano comunque la mia età, e quindi insomma è ancora più strano pensare che quei due gorilla hanno la tua età, non lo so, è particolare. Quindi consiglio sicuramente di andare a Zurigo solo per vedere anche i gorilla, meriterebbe. Però ci sono tante altre cose. Altra cosa molto carina sono stati gli elefanti, perché c'è un bel branco di elefanti con un bel maschione enorme, e devo dire che sono talmente ambientati che girano, giocano tra di loro, hanno molto spazio anche loro, e li vedi interagire tra di loro quasi come se non ci fosse un pubblico intorno a loro. Questo probabilmente è anche perché è uno zoo molto frequentato, quindi gli animali probabilmente sono anche abituati a gestire la compagnia degli uomini. Poi che altro si è visto? C'erano i lupi sembrano dei cagnoloni pigri, perché poi quello che sono, poi i lupi sono dei dormiglioni, cioè vanno a caccia poi se ne vanno a dormire, non sono animali particolarmente entusiasmanti da vedere, anche se comunque sono emozionanti da vedere, perché i lupi sono sicuramente animali molto particolari, però a vederli in uno zoo sono dei grossi cani che dormono in gruppo, ecco, questa è la percezione che si ha, mentre per altri animali che abbiamo visto, ad esempio il leopardo delle nevi è veramente un bellissimo animale, proprio bello dal punto di vista estetico, anche lui se la dormiva alla grande. Anche se ho saputo da Evelina, che è la moglie di Alexis, i miei due ospiti, quelli che mi hanno ospitato a Zurigo, Evelina mi ha raccontato che un giorno il leopardo delle nevi ha puntato e saltato verso la recinzione per accaparrarsi la sua piccola bimba di all'epoca 2 anni e mezzo, e non è una cosa chiaramente piacevole, dici però sì, l'hanno costruito bene, ma ha mai provato se per caso il leopardo riusciva a scavalcarlo? Quindi insomma sicuramente una situazione un po' particolare, che però chiaramente non è successo niente, se non lo racconterei così tranquillamente, perché le recinzioni comunque hanno retto tranquillamente. Credo che sia una cosa abbastanza anomala, però penso che possa anche succedere, e soprattutto considerando che loro vanno allo zoo molto spesso, in quanto sono abbonati e quindi si paga molto meno, insomma è una di quelle formule che usano appunto per le famiglie svizzere o residenti a Zurigo per facilitare l'accesso a tutte queste iniziative. Poi altri animali interessanti, ho visto le tigri, anche loro con uno spazio immenso, l'orso, anche lui aveva uno spazio grandissimo con tanto di grotte costruite molto molto naturali, e poi scimmie a sfare, c'erano tantissimi gibboni che hanno fatto uno show, insomma hanno fatto anche vedere le loro capacità acrobatiche, anche lì erano riprodotti, e quando io vedo in una struttura che tiene animali in cattività degli animali che si riproducono, questo mi fa ben sperare, perché vuol dire anche che se si riproducono questi animali riescono a trovare le condizioni e il modo e la rilassatezza per farlo, e quindi questa è una cosa molto positiva, vedere così tanti piccoli in uno zoo. Poi c'erano anche dei macachi, che in realtà però era talmente vasta la loro area che non siamo riusciti a vederli, c'erano dei binocoli per osservarli ma non siamo riusciti a vederli. Poi altre cose da segnalare, sicuramente una grandissima struttura, io non so quanti metri sia, ma era veramente una cosa sconfinata, che riproduce un parco nazionale del Madagascar con una foresta pluviale, ed è veramente incredibile, perché ti sembra di passeggiare all'interno della giungla tropicale del Madagascar. Infatti gli animali sono tutti liberi, lemuri compresi, chiaramente non ci sono animali pericolosi, però ci sono camaleonti, ci sono farfalle, ci sono diversi uccelli, ci sono pipistrelli, ci sono, suppongo, anche piccoli roditori, ci sono due o tre specie diverse di lemuri, cioè, ci sono moltissimi animali, tutti liberi, che girano per questa enorme serra, che si riconosce che è una serra perché, guardando in alto, a circa, secondo me, almeno 50-60 metri d'altezza, se non qualcosa di più, si vede che è una tenso struttura con dei travi di metallo, dove sopra si trovavano una specie di lemuri che stava lì sopra a guardare e controllare dall'alto la situazione. All'interno di questa struttura c'è anche un piccolo fiume, un laghetto con una cascatella che rende il tutto veramente naturale, tantissime piante, chiaramente tutte provenienti dalle giungle del Madagascar, dalle giungle malgasce, e qualcosa di veramente da lasciare a bocca aperta. E incontrare per caso un camaleonte sul ramo lungo il sentiero è sicuramente una cosa molto molto bella, molto molto emozionante. Quindi anche questo sicuramente aspetto consigliatissimo dello zoo di Zurigo, se volete andare allo zoo e se volete, insomma, andare anche oltre un po' questo concetto di zoo come gabbia, ma vedere lo zoo più come un'opportunità, soprattutto per i giovani, giovanissimi, di imparare e vedere e conoscere, e quindi essere anche più sensibile su certi temi, come appunto quello della conservazione del nostro ambiente. Si vede che lo zoo di Zurigo è orientato particolarmente a una clientela giovane, giovanissima, in quanto è costellato di parchi e soste per far giocare i bambini, chiaramente tutto compreso nel prezzo, compresi scivoli molto belli, molto lunghi, e altre attività, tipo c'è il zoolino, lo chiamano così, una piccola sezione dello zoo dedicata a animali della fattoria, dove i bambini hanno l'opportunità di vedere, ma anche di toccare con le loro mani gli animali innocui della fattoria. E quindi anche quello riporta un po' una dimensione reale degli animali, che invece sono più accessibili a tutti. Quindi magari per un bambino di città che non ha mai avuto un pollaio o non ha mai tenuto una capra o una pecora, lì si ha la possibilità di vedere questi animali, diciamo, più comuni sicuramente, ma di toccarli e di interagire con loro, che non è una cosa brutta per i bambini piccoli soprattutto. Quindi sicuramente a tutti quelli che hanno figli lo consiglio, però anche a chi non ha figli e si vuole fare un giro in quel di Zurigo e farsi una puntatina nello zoo, sicuramente si godrà la vista di alcuni degli animali, si emozionerà con i gorilla e si godrà anche una passeggiata nel verde, perché comunque la zona dello zoo di Zurigo, che è comunque molto grande, è molto, molto rigogliosa, molto verde, ed è molto piacevole da passeggiare magari in una bella domenica di sole d'estate o di primavera, perché insomma, come sapete, il tempo in Svizzera non è dei migliori. Bene, dopo questo intervento sullo zoo di Zurigo, direi che possiamo passare all'altro pezzo, prima che mi crolliate addormentati. Mettiamo un altro pezzo da muoversi, quindi potete muovervi mentre, che ne so, fate le pulizie, guidate, ma mi raccomando con prudenza, oppure se siete davanti al computer non vi guarda nessuno, magari c'è il collega che guarda da un'altra parte, voi ballate, se non c'è il vostro capo potete dimenarvi e agitarvi sulla sedia tranquillamente. Qui c'è un vecchio pezzo, nel senso, non è vecchio pezzo perché è un pezzo nuovo, il gruppo si chiama, dunque ho assolutamente un ipervuoto di memoria, ma ve lo dico in un attimo, il gruppo si chiama accidenti, Retrosonic, ecco. E infatti si parlava di un vecchio pezzo perché loro mi riportano indietro all'epoca di ribellione adolescenziale, e dopo questo pezzo parleremo di qualcosa che mi ha fatto un po' girare le palle, e per adesso godetevi questo Rock and Roll Retro, l'ho detto Retrosonic. Buon ascolto. got a story to tell. It ain't got no happy ending, and it might sound like hell. To some poor guy. God never shone upon his soul, and the only thing he had was something called rock and roll. Fucking rock and roll! Rock and roll dei Retro Sonic, non riesco a memorizzare il nome di quel gruppo, da jamendo.com.it o punto fr, e secondo me anche punto pl, però questo devo ancora verificarlo. Comunque andiamo avanti, perché come vi ho detto, questa canzone dai toni molto adolescenziali, molto non c'ho niente se non questo fucking rock and roll eccetera eccetera, con questi coretti molto panchettoni. Mi ha ricordato appunto che c'è qualcosa che mi ha fatto abbastanza incazzare e si chiama Trenitalia. Lo conoscete? Penso di sì. Questo niente di grave, fortunatamente, probabilmente solamente un'impiegata che non era molto preparata e quindi non sapeva bene come rispondermi. Però ho scoperto che a quanto pare i 5 anni sono una zona grigia, una zona grigia per Trenitalia. Infatti questo è successo dovendo andare appunto a Zurigo a trovare questi miei amici. Ho prenotato un treno da Genova a Milano, poi da Milano a Zurigo, e insomma solitamente faccio delle macchinette, però in questo caso era un po' più complicato. Allora ho detto vabbè, vado a farlo in biglietteria. Così ho fatto, e in biglietteria, quando gli ho detto guardi, però viaggio con una bambina di 5 anni, che riduzioni ci sono? Perché dovete sapere che se voi guardate sul sito ci sono riduzioni dai 4 in giù e dai 6 in su, e a 5 non si capisce cosa succede. Quindi io ho chiesto, ma scusi, a 5 anni qual è la riduzione? E mi dicono, così con un sospiro, come dire, ma perché me lo viene a chiedere a me, che sono il 22 d'agosto e non ce n'ho proprio per le palle di stare qui a lavorare? E io dico, insomma, con l'espressione, non è che lei qui lavora. Comunque mi risponde, dice, 5 anni sono una zona grigia, è una zona grigia, 5 anni è una zona grigia, non si sa. E quindi io ho detto, ma scusi, allora che riduzione mi fa? Non lo so, vediamo un po' cosa mi dà il sistema. non lo so, poi alla fine non so bene cosa abbia fatto. Comunque mi ha dato una riduzione, credo pari a quella dei bambini sopra i 6 anni, e dai 6 ai 16 mi sembra che sia lo scalino, e poi dai 16 in su. Quindi mi ha fatto questa riduzione sulla tratta Genova-Milano, con posto chiaramente prenotato e 2 posti, mentre sulla tratta Milano-Zurigo un posto prenotato solo, però la bambina viaggia a gratis, e questa è una cosa bella: i bambini al di sotto dei 6 anni viaggiano gratis, non hanno il posto però hanno la possibilità di sedersi quando chiaramente c'è un posto che si libera, e noi l'abbiamo trovato quasi subito, quindi assolutamente non c'è stato nessun problema. Quindi viva gli svizzeri e abbasso Trenitalia, questo è un po' il succo del discorso. Comunque fa niente, ormai l'abbiamo superate questa voglia di distruggere Trenitalia e di dare fuoco a tutte le ferrovie dello Stato, perché sono inefficienti. Ormai, dopo anni e anni di lotta contro di loro, uno ci si abitua purtroppo e cerca di non prendersela troppo. Comunque pazienza, gli svizzeri d'altro canto ci hanno messo dell'oro quando io ho fatto il biglietto del ritorno senza dirmi niente e dandomi la cifra in franchi svizzeri, in cui io non sono abituato. Mi hanno prenotato da Milano a Genova il treno, il Freccia Bianca, spendendo 3 volte tanto. Beh, comunque non mi hanno detto niente, io non me ne sono accorto dal prezzo, e poi quando ho guardato sul biglietto ho visto questo FB, ho detto porco cane, mi hanno venduto il biglietto per la Freccia Bianca per andare a Genova. Comunque pazienza, è andata così. Non sono molto fortunato con i treni, però poi la vacanza è andata molto bene, quindi non mi posso assolutamente lamentare. Volevo semplicemente, prima di un pezzo, perché insomma adesso incomincerete a essere anche stanchi della mia vociaccia un po' rauca, volevo accennare una cosa che non ho ancora fatto, specialmente negli ultimi episodi, che avrei dovuto farlo ma non l'ho fatto, sul sito rockhousepodcast.com, che è il blog di riferimento, il sito di riferimento per i Rockhouse Podcast, chiaramente, come è facilmente immaginabile. Infatti, se voi vi collegate e guardate in alto a destra sulla sidebar, vedete un simpatico bannerino che vi dice donate al biologo saccente, contribuisci anche tu a Rockhouse Podcast. Adesso non mi ricordo neanche cosa c'è scritto, comunque c'è qualcosina che vi dice che potete donare, e non è perché io voglia i vostri soldi per comprarmi la macchina nuova, anche perché non ci penserei minimamente, anche se voi mi deste, non so, 100.000 euro, li investirei sicuramente in altre cose. Ma al di là di questo, tutti i soldi che per caso potrebbero arrivare a Rockhouse Podcast verranno investiti per un setup audio migliore, quindi l'acquisto di un mixer, l'acquisto di un altro microfono, l'acquisto di alcune cose che aumenteranno la qualità del Rockhouse Podcast dal punto di vista tecnico, e mi permetteranno di registrare un pochino più spesso, avendo un setup un po' più leggero e quindi perdendo poi meno tempo anche nella post-produzione, oltre che nella preparazione dell'episodio, che per adesso è un po' farraginosa. Comunque vi invito quindi a donare qualcosa al biologo saccente, perché così almeno riesco a tirare su qualche soldo, e una passione come il podcasting riesco magari a non rimetterci, che sarebbe carino, perché fino adesso chiaramente è tutto a spese mie. Fortunatamente le spese sono limitate, perché c'è stato il microfono ormai da tempo immemorabile, più il tempo non, chiaramente non viene contato, però il dominio del sito ad esempio quello è a pagamento, e le ore perse per sistemare il setup che tutte le volte fa le bizze o le pizze, che dir si voglia. Quindi se avete voglia, un bel donate e via. Tra l'altro, se riuscirò a implementare un setup un po' migliore, l'idea è quella di fare anche lo streaming audio video, quindi potrete forse vedere anche la mia faccia in diretta mentre registro il Rockhouse Podcast e sentirmi con una qualità decente. Stasera avete rischiato, perché io ho provato a fare una uno streaming su Twitchcam, però non so perché l'audio era terrificante, anzi no, lo so perché, perché c'è un setup del cazzo, però questo è un altro discorso. E quindi spero che qualcuno di voi si intenerisca e mi doni qualcosa, così da poter far diventare semplicemente una passione a spese zero, o comunque riducendo le spese il più possibile, che non fa mai male. Bene, dopo questo pippone direi di mettere un altro pezzo che è abbastanza bello, perché mi piace, molto rappresentativo. Il titolo è I Am Who I Am, quindi so quel che so, non è che ci posso fare tanto. E il gruppo si chiama Olala, un nome molto carino, non so da dove venga fuori. Il gruppo questa volta non è da Giamendo, ma è da Radio Direct X, che è un altro sito che distribuisce musica per podcasters, ma anche per voi se volete, e permette il download gratuito dei pezzi di numerosissimi gruppi, soprattutto americani. E questo infatti è un gruppo americano e ci fa sentire I Am Who I Am. Stood on sacred ground for a fearless man. Certo che quando mi fanno questi sfumati qui mi fanno incazzare come le bestie. Comunque vabbè, il pezzo era molto carino, I Am Who I Am, e ricorda un pezzo delle Zeppelin, adesso non vorrei, però mi ricorda proprio un pezzo delle Zeppelin. Comunque pazienza, andiamo avanti nel Rockhouse Podcast episodio 34. La lingua comincia a intorcigliarsi, non sono ancora più abituato a stare al microfono, come potete sentire dalla qualità linguistica che sta decrescendo ogni secondo di più, e sono anche abbastanza stanco, anche perché qua è mezzanotte e sto registrando, quindi ormai in notturna, però insomma avevo voglia di registrare, quindi ho attaccato e mi sono messo a registrare. Dopo un'ora e mezza di preparativi sono riuscito finalmente a mettermi al microfono. Dunque direi che possiamo passare alla rubrica successiva, che però ahimè è orfana di messaggi. Infatti è la rubrica del biologo saccente, che mi dovrò fare cantare tutto da solo, perché questa è colpa mia, non essendo stato molto costante negli ultimi mesi con le pubblicazioni degli episodi. Non mi sono arrivati i contributi per il biologo saccente, però adesso ho visto che ci sono un po' di nuovi ascoltatori, quindi invito tutti gli ascoltatori vecchi e nuovi a mandarmi dei contributi per la rubrica del biologo saccente. Vi ricordo che mi van bene dei contributi audio, anzi benissimo, ma accetto anche le email a rockhousepodcast@gmail.com. O tramite Facebook, se volete, se voi cercate www.facebook.com/rockhousepodcast, cioè l'utente, se no c'è anche la pagina come stazione radio, visto che hanno messo questa opzione del Rockhouse Podcast, quindi potete dire mi piace e seguire gli aggiornamenti anche da lì, senza necessariamente diventare miei amici se non volete essere miei amici, non c'è problema, ma io solitamente accetto tutti gli ascoltatori del Rockhouse, mi fa piacere comunicare con loro, anche ogni tanto fare due chiacchiere via chat. Quindi vi invito a connettervi con me in qualche modo, anche su Twitter mi trovate come Rockhouse Pod, quindi Rockhouse Podcast su Facebook, Rockhouse Pod su Twitter, e poi mi trovate un po' da tutte le parti, mi trovate anche su Instagram se volete seguire le mie vicissitudini fotografiche con Rockhouse Pod, il nome dell'utente. Va bene, comunque se siete su Twitter o Facebook più o meno poi si comunicano tutti i vari social network, quindi potete avere tutto in uno, quindi vi consiglio probabilmente la cosa migliore è Facebook, ma se volete qualcosa di meno invasivo forse Twitter è quello che si addice di più. Comunque andiamo avanti, basta con queste cose, e lanciamo la nostra rubrica più famosa, la rubrica più famosa al mondo forse, l'angolo del biologo saccente. Durante questo periodo della giornata, gli abitanti di questa casa si trovano normalmente fuori del loro habitat. Probabilmente si stanno procacciando il cibo, oppure sono fuori per motivi che la scienza ancora non è riuscita a spiegare. Potrebbe anche accadere che siano a casa, ma in questo caso probabilmente stanno effettuando il rituale di riproduzione dei mammiferi. Lasciate un messaggio dopo il verso del picchio dal ciuffo argentato. E dopo il verso del picchio dal ciuffo argentato c'è di nuovo la mia voce che vi introduce un discorso, diciamo, da biologo saccente, però non particolarmente. Infatti, cosa credete voi? Che i biologi saccenti vadano in vacanza? No, non vanno mai in vacanza, anche quando sono in ferie cercano un modo per saccentizzarsi e saccentizzare la gente intorno a loro. E quindi vi racconterò come io saccentizzo la gente intorno a me durante i miei momenti di ferie e cosiddetto relax. Infatti da ormai diversi anni, ma quest'anno più da vicino e anche con, diciamo, compiti e oneri e onori di tipo organizzativo e gestionale, sto facendo un'attività chiamata sea watching o videobarca, coinvolgendo un po' colleghi e amici che lavorano nel campo della divulgazione scientifica, tipo anche del Festival della Scienza, eccetera, eccetera. E ho Acquario di Genova, dove, come sapete chi mi segue, ho fatto anche un po' di guide, ho fatto anche un po' la guida all'acquario tra le varie cose degli anni passati, e coinvolgendo anche loro siamo imbarcati, anzi video imbarcati in questa avventura da biologi saccenti. E cosa facciamo? Noi imbarchiamo i turisti, e tutta l'estate abbiamo fatto lunedì, mercoledì e sabato da Santa Margherita Ligure, e alcuni giorni invece sempre da Santa Margherita, ma anche da Rapallo, Sestri Levante, Lavagna e Chiavari, e abbiamo effettuato due tipi di escursioni per i turisti, con una bella barca che si reca in un caso al Cristo degli Abissi, di cui adesso parlo, e oppure su dei relitti al largo di Sestri Levante. Si parla sempre chiaramente di Riviera del Levante, della nostra bene amata Liguria, dove appunto facciamo questa attività, che quest'anno, essendo assegnista ISMAR CNR, Istituto di Scienze Marine, ho unito e ho creato una sorta di collaborazione, quindi queste attività sono tutte fatte col patrocinio del mio laboratorio, e mi permettono quindi di farmi un po' di ore al di fuori delle quattro mura del laboratorio, all'aria aperta, con i turisti, che non guasta. E cosa si fa in queste escursioni? Vi parlerò di quella del Cristo, perché secondo me è la più suggestiva e interessante dal punto di vista poi biologico soprattutto. In pratica si parte con la barca, tipicamente da Santa Margherita, ma come vi ho detto anche da altre località, e si ci reca sul punto di immersione, che è il Cristo degli Abissi. Cos'è il Cristo degli Abissi? Il Cristo degli Abissi è una statua che è stata messa sott'acqua nel 1954, sono preparatissimo, ed è stata un'idea di Duilio Marcanti. Marcanti, per tutti i subacquei, è un personaggio, soprattutto in Liguria, ma in Italia in generale, molto famoso, perché è stato uno dei primi subacquei italiani e quelli che ha fatto uno di quelli che facevano un sacco di esperimenti per vedere, insomma, quanto si resisteva sott'acqua senza schiattare con le bombole, anche cose di vario tipo, sicuramente più elaborate, che realmente sto semplificando, però ha fatto diversi esperimenti con i primi subacquei italiani sicuramente, e li faceva proprio nella baia di San Fruttuoso, dove è sito proprio il Cristo degli Abissi. In quella baia, sfortunatamente, durante uno di questi esperimenti, un subacqueo, Gonzatti, è morto durante una di queste prove. Allora Duilio Marcanti ha pensato di commemorare l'amico, quindi di fare diventare anche un po' questa statua come una mecca per i subacquei, con un Cristo scolpito con bronzo di recupero dall'esercito, che era stato donato dall'esercito e fuso, e scolpito poi da Guido Galletti, uno scultore locale, che ha preparato la statua e l'ha immersa a circa sono circa 15-16 metri, mi sembra, forse arriva a 18 il fondale dopo la base. Sono 2 metri di statua, quindi con le mani che arrivano circa a 13 metri o 12-13 metri, ed è veramente una statua molto suggestiva. Io chiaramente, beh, non chiaramente, però io non sono religioso, lo dico tranquillamente, non sono assolutamente credente, ma devo dire che il Cristo degli Abissi è una statua che ha sempre una certa presa. Quando la vedi sott'acqua in questa nuvola di pesci castagnole, tipicamente, con qualche alghetta svolazzante, è molto molto suggestiva. Quindi consiglio a tutti una visita al Cristo degli Abissi, possibilmente facendo un'immersione, ma anche in apnea. Se siete dei buoni apneisti, potete arrivare tranquillamente a darvi un'occhiata al Cristo degli Abissi. Ecco, chiaramente non posso saccentizzare nessuno intorno al Cristo degli Abissi, quindi l'immersione o l'escursione procede in una maniera molto particolare. Allora, dicevo che ci si reca con la barca sul punto di immersione, dopodiché un subacqueo si immerge con telecamera e microfono e auricolare e va a riprendere non solo il Cristo degli Abissi, ma anche la parete adiacente al Cristo degli Abissi, una parete di roccia che scende fino a circa 40 metri, arriva fino a 35 metri e comincia a riprendere tutti gli organismi, e si trova veramente di tutto, perché ricordiamo, lì è un'area marina protetta, quindi ci sono veramente gli organismi incredibili. Uno su tutti, il più famoso, è il corallo rosso, quello che si usa appunto per i gioielli, ed è una gioia, insomma, saccentizzarmi per me, perché mentre il subacqueo proietta le immagini sulla barca tramite un sistema via cavo e parla anche, interagisce con me e con il pubblico, io faccio una sorta di live documentary della vita dell'area marina protetta di Portofino. È una cosa veramente carina, una bella attività sia per i piccoli che per i grandi. Ha qualche controindicazione per quanto riguarda i subacquei, infatti se si fa un'attività di questo tipo viene un'irrefrenabile voglia di immergersi e bisogna assolutamente immergersi nelle 48 ore successive, se no credo che si possano avere delle conseguenze gravi sulla salute, perché veramente ti fa venire una voglia di buttarti sotto incredibile. Una delle tante cose che tengo a sottolineare, e lo dirò anche qui, perché anche se l'ho detto in qualche episodio molto passato, lo ridirò, una delle cose su cui picchio parecchio durante le mie videobarche, che esprime tutto il mio animo da biologo saccente, proprio riguarda il corallo rosso, l'organismo più rappresentativo, uno degli organismi più rappresentativi dell'area marina protetta di Portofino, che è proprio la struttura dell'organismo coloniale e i polipi del corallo e non i polpi. E da quest'anno ogni tanto, cioè mi è venuta ormai, lo sto dicendo sempre, una battuta che però piace molto, che tutte le volte che qualcuno confonde il polpo con il polipo, un biologo marino nel mondo muore, e questa è una cosa che secondo me potrebbe succedere veramente. Tra l'altro non so se vi è capitato di vedere su, non mi ricordo più che canale, io non guardo mai la TV, l'ho acceso per una serata e ho visto un film che era Deadly Water, una cosa tremenda, in cui chiamano un calamaro gigante, lo chiamano per tutto il tempo, lo chiamano polipo invece che calamaro, ad esempio, perché non era neanche un polpo. Questo chiaramente è colpa dei traduttori italiani, quindi vabbè, questo sono cose che capitano. Questa è una delle varie attività che il biologo saccente fa durante, insomma, la stagione estiva, ma un'altra che sto progettando e vi dico fino ad adesso che se siete interessati a partecipare, le partecipazioni e iscrizioni sono apertissime e appena avrò un numero sufficiente a settembre o ottobre direi che farò un esperimento di questa particolare escursione da biologo saccente. Sarà la immersione guidata, questa per subacquei, quindi esclusivamente se siete brevettati, un'iscrizione subacquea sott'acqua guidata. Quindi io indosserò un gran facciale, che è la maschera che aveva anche il nostro subacqueo durante la videobarca, che ti permette di parlare e di essere ascoltato tramite appositi ascoltini, nome tecnico di queste cose che sono dell'auricolare da mettere sulla maschera, e quindi si potrebbe avere la possibilità quindi di fare un'immersione con una guida che spiega quello che si vede, quello che si incontra, quando si incontra, quando si vede. Quindi secondo me potrebbe essere veramente un portare all'estremo, un documentario subacqueo sulla vita marina. È proprio il massimo dell'interattività che si possa pensare, altro che televisione 3D. Va bene, adesso direi che possiamo andare avanti, anche perché mi sto dilungando veramente tanto. Abbiamo ancora un paio di pezzi e poi la finiamo lì. Però per il momento abbiamo il pezzo, è un pezzo un po' particolare, perché adesso ascolteremo due pezzi, non lo faccio mai, due pezzi della stessa band. Però devo dire che se lo sono meritati, perché sono due stili estremamente diversi e quindi mi piaceva metterli anche a confronto. Il primo pezzo che ci ascoltiamo, questo loro sono i Black Bones, e il pezzo si intitola Smoked and Stoned. Poi spero che voi abbiate tanta pazienza, perché io sono tanto stanco e penso di aver detto un sacco di cagate. Quindi per il momento rilassatevi e muovete un po' le anche con Smoked and Stoned. Shine. Smoked and Stones dei Black Bones. Bene, io qua mi sto orizzontalizzando sempre di più sul divano mentre registro, quindi si è notato un po' di strozzamento della voce per la posizione che il mio corpo sta assumendo man mano che i minuti corrono. Qui ormai è 12:15 e incomincio ad accusare un po' i giorni passati dormendo poco, però cercherò di raccogliere le ultime forze per arrivare alla fine dell'episodio e per ricordarvi che chiaramente il vostro biologo saccente lo potete trovare anche su Scientificast, un podcast sicuramente molto più serio e più curato di quello che sia Rockhouse Podcast, e dove faccio i miei interventi da biologo saccente insieme a Silvia, che è insomma la nostra biofisica gattara, bravissima e assolutamente precisissima, e se non ci fosse lei io sarei perso nella registrazione, nella preparazione degli episodi. Ma vi volevo parlare di Scientificas soprattutto perché stiamo organizzando degli eventi in vista dell'inizio anche della nuova stagione del podcast, che inizierà appunto il 3 di settembre. Ci uscirà il primo episodio della seconda stagione, quindi vi invito sicuramente ad andare a vedervi Scientificast il sito e abbonarvi tramite iTunes, tutto quanto, e poi preparatevi, perché appunto ci saranno queste iniziative, si parla di cene, si parla di presentazioni con personaggi abbastanza noti, di visite guidate, aperitivi e cose di questo tipo, che saranno non riservate ai soci ma con alcuni privilegi per i soci. Quindi magari il socio pagherà meno, avrà degli sconti, delle cose in più, mentre il non socio potrà pagare leggermente di più e diventare nel contempo socio e partecipare all'iniziativa, per poi godere in seguito di tutti i benefici che i soci avranno in futuro nelle varie iniziative di Scientificast, che vi ricordo è diventata un'associazione culturale, per quello che voi potete associarvi a noi. Bene, detto questo, direi che possiamo andare avanti. Vi volevo segnalare un video incredibile a proposito appunto di Subacquea, che ho trovato su YouTube. I fan e i seguaci di Facebook forse l'avranno già visto, che l'ho postato sul mio profilo Rockhouse Podcast, però lo metterò anche sul blog, un video di una artista disabile impressionante, veramente una cosa impressionante, in cui lei, che in seguito a un incidente è rimasta paralizzata, è appassionata di subacquea, ha cercato di unire l'arte e anche diciamo il suo handicap per regalarci veramente un video molto molto suggestivo, che si chiama Creating the Spectacle, e c'è la parte 1, part 1, che si chiama Finding Freedom, in cui si vede proprio la nostra artista che vola, letteralmente vola con una sedia a rotelle modificata in modo da andare subacquea, e si muove lungo una barriera corallina accompagnata da una musica molto molto suggestiva. Quindi assolutamente una cosa consigliata, e tra l'altro adesso questo è un video un po' anche di promo, da quanto ho capito, perché poi ci sono degli spettacoli live fatti in piscina, con dei posti in piscina e a bordo piscina, sono cose veramente particolari, e di questo tipo di performance artistiche. Guardatelo perché è molto suggestivo, andatevi a documentare perché ne vale la pena. Io vi lascerò comunque un po' di link nelle note dell'episodio. Bene, io direi che siamo praticamente giunti alla fine, abbiamo ancora un pezzettino, come vi avevo già anticipato. Spero che insomma di essere stato abbastanza chiaro nelle cose che di cui ho parlato oggi, perché nella mia testa non è assolutamente chiaro, però nella post-produzione cercherò di rendermi conto se questo episodio è pubblicabile o meno, ma poi alla fine come sempre lo pubblicherò così com'è o quasi, quindi alla fine farò così, però insomma vedremo un attimo, devo ancora rendermi conto di quello di cui ho parlato e di quello che ho registrato. Andiamo ad ascoltarci quindi il secondo pezzo dei Black Bones, che è la title track, quindi che dà il titolo al loro CD, che trovate su giamendo.com.it o.fr o.pl, e è un pezzo molto carino, a chi piace soprattutto la vita piratesca e i suoni pirateschi, che poi vabbè inizia così poi cambia un pochino, però è veramente carino e realizzato bene. Quindi ci sentiamo Pirates of the Coast, Black Bones. Black Bones con Pirate of the Coast, un pezzo molto piratesco, molto bello, poi con questa bella chitarra elettrica, insomma bello, sì, siamo contenti di questo pezzo, molto diverso dal precedente Smoke and Stone, ma stesso album. Come sentite, la voce e l'energia sono quasi del tutto finite, quindi direi di partire come al solito ormai da non so più quanti episodi con quello che è il nostro tormentone finale. Eccola qua. Siamo arrivati alla fine, mentre una zanzara attenta alla mia vita in questi ultimi minuti del podcast. Spero veramente di essere stato comprensibile durante questo episodio, perché un po' è faticoso, non sono ancora abituato di nuovo a registrare e un po' sono stanco, un po' ero impreparato. Ma il Rock House Podcast è anche questo. Per i nuovi ascoltatori direi che incominceranno a conoscere i pregi e i difetti del Rock House Podcast. E insomma, il sottoscritto, Julien, che non tutti conoscono, specialmente nuovi, è un po' come funziona qui da queste parti. L'andazzo, che è un po' così, un po' variabile. Il prossimo episodio io spero di pubblicarlo con il setup nuovo, perché tutti quanti gli ascoltatori vecchi e nuovi del Rock House Podcast mi avranno fatto talmente tante donazioni da potermi permettere un setup nuovo. Vedremo cosa succede. Comunque vi ricordo tutti i miei estremi: rockhousepodcast@gmail.com, www.facebook.com/rockhousepodcast, www.twitter.com/rockhousepod, oppure insomma cercate Rock House Podcast su Google, rockhousepodcast.com il sito di riferimento, e lì trovate tutte le informazioni che volete e anche quelle che non volete e di cui non vi ne frega niente. Un saluto, se mi stanno ascoltando, ai miei compagni di immersione, dell'immersione alle 5 del mattino sulla secca dell'Esuela, quindi Paola, Alessio, Maddalena e tutti i ragazzi del Mondo Fondo Diving Center che ci hanno accompagnato in questa avventura estremamente mattiniera. Bello, eh? Ah, bello, ma mai più nella vita alzarmi così presto per fare un'immersione, perché poi stai completamente rincoglionito tutto il giorno. Una volta che passa l'adrenalina dell'immersione è finita, non riesci più a fare niente. E io ero pure in ferie, mi è andata bene, c'è chi lavorava quel giorno. Quindi direi che siamo giunti veramente alla fine. Invito tutti i vecchi e nuovi ascoltatori, oltre che a donare, che non è poco carino, questuare, si dice a Genova, chi non cianze nutetta, cioè chi non si lamenta non ottiene. Volevo più che altro ricordarvi soprattutto la cosa più importante: i contributi per l'angolo del biologo saccente. La mia segreteria telefonica langue e piange, quindi scrivete a rockhousepodcast@gmail.com e mandate i vostri contributi, preferibilmente audio, perché è bello sentire le vostre voci, ma anche per iscritto, non c'è problema, li leggerò io con una voce fastidiosissima, quindi cercate di mandarmeli audio. Va bene, siamo giunti alla fine, la nostra base sta giungendo anche lei alla fine, io mi sto spegnendo con lei, quindi direi che è l'ora per me di andare a dormire, e voi magari una buona giornata se è mattino. Con questo concludiamo. Da Julien, un saluto a tutti voi.